Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Cargo crime, così a livello internazionale, e vengono definiti i fenomeni predatori nei confronti dei carichi di merce. Parliamo in sostanza di furti e rapine ai danni dei TIR, fenomeni che negli ultimi tempi hanno fatto registrare tendenze preoccupanti a livello internazionale, con il segno più che compare nei bilanci statistici di mezza Europa. In Italia, a breve, l'Osservatorio sui furti e le rapine ai danni dei TIR, organismo istituito giusto un anno fa, diffonderà i dati definitivi relativi al 2016. Secondo stime e non ancora ufficiali, nel nostro paese il numero dei furti sarebbe sostanzialmente stabile, mentre è in crescita quello delle rapine. Per fotografare tendenze e mettere a fuoco soluzioni a difesa della merce e di chi la trasporta, nei giorni scorsi a Milano TAPA, l'Associazione della Protezione dei Beni Trasportati, ha organizzato un convegno al quale hanno preso parte i responsabili della sicurezza delle aziende e i rappresentanti delle forze di polizia. Franco Fantozzi è il presidente di TAPA, a lui abbiamo chiesto di inquadrare il fenomeno del cargo crime. Vi è stato un incremento rispetto agli anni scorsi delle rapine, furti, danno dei trasportatori in misura notevole in paesi come il Regno Unito, l'Olanda, la Svezia, la Germania e anche l'Italia. La peculiarità italiana è il ricorso ad azioni violente da parte dei criminali. Si configura anche con il ricorso a più reati, nel senso che l'autotrasportatore viene il più delle volte sottoposto a un vero e proprio sequestro di persona e poi rilasciato dai criminali, e quindi diciamo che rappresenta davvero un fenomeno preoccupante per tutta la filiera. Ma sentiamo quali sono le aree del nostro paese più a rischio. Tra le regioni più colpite dal fenomeno in Italia vi è ovviamente la Lombardia per la presenza di numerosi hub logistici, ma a seguire vi sono le regioni come Puglia, Campania e Sicilia, ove non possiamo escludere che la criminalità organizzata abbia un ruolo preponderante nella gestione di questa attività criminale. Per combattere il cargo crime, strategie e soluzioni a confronto, dicevamo. Sentiamo ancora Franco Fantozzi. È emerso davvero in maniera evidente la necessità di procedere alla messa in sicurezza di tutta la cosiddetta supply chain, ovvero dal momento del deposito fino a tutto il percorso, in particolare in quelle paesi come l'Italia dove il maggior numero dei crimini avviene proprio lungo il trasporto, è importante ricorrere a standard di sicurezza particolarmente elevati. L'area di parcheggio, cioè il momento in cui il carico sosta, è una delle situazioni di maggiore vulnerabilità, di cui l'avvio del progetto Parcheggi Sicuri. La DGOM della Commissione Europea ha evidenziato come la stessa Commissione Europea stia insistendo affinché i paesi si dotino di un numero elevato di aree di parcheggio sicure, affinché ci possano essere dei cosiddetti corridoi sicuri di transito per gli autotrasportatori in tutta Europa. Dalla sicurezza delle merci a quella delle persone lungo le strade. La legge sull'omicidio stradale è entrata in vigore giusto un anno fa, al termine di un iter parlamentare alquanto accidentato, segnato anche da dubbi e polemiche. Valutare l'impatto e gli effetti di una legge, qualunque sia, in un lasso di tempo così limitato, può diventare un esercizio un po' frettoloso, se non fuorviante, ma inevitabilmente un tema così delicato si presta comunque a qualche considerazione. ASAPS, l'associazione dei sostenitori della polizia stradale, si è affidata ai numeri. Dal 25 marzo al 31 dicembre 2016, gli incidenti mortali rilevati dalla polizia stradale e dai carabinieri sono stati 1.235, meno 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. In questa statistica quindi non sono compresi gli episodi avvenuti in ambito urbano, essendo i rilievi di competenza delle polizie municipali. Altri numeri: nei primi due mesi del 2017, gli incidenti mortali, si fa sempre riferimento ai dati di Polizia di Stato e Carabinieri raccolti da ASAPS, sono stati 177, con una diminuzione del 14,9% rispetto al primo bimestre del 2016. Vuol dire quindi che la legge sull'omicidio stradale ha contribuito in maniera decisiva al calo degli incidenti? Lo abbiamo chiesto direttamente al presidente di ASAPS, Giordano Biserni. La legge non ha come scopo quello solo dissuasivo di ottenere dei risultati in termini di sicurezza stradale. La legge, vogliamo chiarire, ha come obiettivo quello di rendere giustizia alle vittime della strada, che giustizia, e familiari, che giustizia non avevano assolutamente fino all'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale. Quindi già questo è il primo obiettivo. Poi i primi dati che vengono diffusi dimostrano una diminuzione abbastanza significativa, insomma, diciamo che i risultati sono abbastanza confortanti, poi bisogna vedere. Una delle argomentazioni sostenute soprattutto nei primi mesi dopo l'entrata in vigore da chi poneva dubbi sull'efficacia della legge era relativa all'aumento dei casi di omissione di soccorso della serie, e l'inasprimento delle sanzioni può indurre alla fuga contando magari sulla possibilità di non essere mai identificati. Anche su questo punto sentiamo Biserni. Bisogna spiegare bene alla gente alcune cose. Intanto, se scappi hai il 60-65% di probabilità che ti prendano, innanzitutto. Non è come il furto, voglio dire, che ha l'1% di probabilità di essere scoperti. Ma a parte questo, non è che se uno poi, quando viene individuato, dice vabbè, dopo non vedono più che era ubriaco drogato. Allora, intanto cominciamo col dire che la pena aumenta da un terzo a due terzi, la pena base, con la pena minima di 5 anni. Ma se ti dai la fuga dopo aver ucciso, puoi andare in revoca patente fino a 30 anni, Secondo i dati dell'osservatorio dell'ASAPS, diciamo che nel 2016 in effetti noi abbiamo rilevato 9,6% di pirateria in più rispetto all'anno prima, però stranamente o non stranamente vediamo che con 115 morti per pirateria stradale rispetto ai 146 del 2015 c'è un calo del 21%. Uno si potrebbe domandare come mai questa forbice, non ce la sappiamo spiegare bene. C'è un dato che però ci può essere utile, per esempio i positivi ad alcol e droga fra i pirati della strada individuati nell'immediatezza o poco dopo il fatto sono calati nelle mortalità dal 24,5 intorno al 22%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la percentuale di ubriachi drogati sta calando, almeno in quelli che vengono individuati e scoperti. Restiamo sul tema. ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, prosegue la sua campagna 10 e lode a favore della sicurezza delle gite scolastiche. L'ultima tappa la scorsa settimana in Toscana, a Sesto Fiorentino, il presidente di ANAV Giuseppe Vinella ha annunciato un'iniziativa ulteriore. Sentiamo quale nell'intervista del nostro Massimo De Donato. Presidente, l'ANAV ha inviato una lettera all'autorità per la concorrenza proprio per sollecitare un rispetto maggiore della sicurezza, semplicemente rinunciando alle gare al massimo ribasso. Ho l'auspicio di poter ottenere dagli stessi una risposta che possa ben magari rafforzare la nostra posizione e il nostro progetto di sicurezza che da un po' stiamo portando avanti, e augurandoci che in questa risposta possa essere ben chiarita che il codice degli appalti, che prevede appunto anche la possibilità del massimo ribasso nelle gare inerenti ai servizi scolastici e il noleggio in senso lato, possa essere invece interpretato come non il criterio principale da utilizzarsi da parte delle direzioni scolastiche. Un'altra richiesta che arriva però dalla scuola è quella di avere un bando standard che consenta agli istituti scolastici di poter effettuare delle gare senza dover avere dei tecnici appunto che imbastiscano dei veri e propri bandi. Potremmo magari ipotizzare uno schema tipo da poter sottoporre alla loro attenzione, che ovviamente diventerebbe uno strumento importantissimo da far circolarizzare attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione o il Ministero degli Interni, magari anche sottoscrivendo delle ulteriori protocolli tra di noi. Trasporti eccezionali al palo per la mancata concessione delle autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle strade, una conseguenza del crollo del cavalcavia avvenuto lo scorso ottobre in provincia di Lecco. È un tema caldo per il mondo dell'autotrasporto. Ci sono due notizie. La prima è che il Ministero ha elaborato una direttiva per sbloccare la situazione di stallo e l'ha presentata alle associazioni. L'altra arriva dalla Lombardia, una delle aree produttive maggiormente penalizzate dal blocco. La Giunta regionale ha approvato la legge cioè di semplificazione 2017, all'interno della quale è inserita la norma che impone agli enti proprietari delle strade la pubblicazione sui propri siti istituzionali dei tragitti percorribili dai trasporti eccezionali, assicurando così adeguati standard di sicurezza e manutenzione delle infrastrutture. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, con hashtag Autotrasporti ci risentiamo lunedì 13.45, ora il GR da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.